canzone e il mio amore. Questa canzone è il mio amore. Vuoi ballare? Questa canzone è il mio amore. Vuoi ballare? Questa canzone. Questa canzone è il mio amore.